Capitolo 10. La sera seguente, appena varcata la soglia della casa di Cyrus Taylor, Anna sentì che l'atmosfera era gelida. Un'ineccepibile cameriera la accompagnò nello spogliatoio per gli ospiti e, salendo le scale, Anna intravide da basso la signora Taylor che sgattaiolava in cucina. Stava asciugando le lacrime che le rigavano il viso ancora grazioso, ma pallido e sciupato. Era evidente che a Cyrus non era ancora passato il nervoso per via della camicia da notte. Glielo confermò Trix, che con aria angosciata venne a bisbigliarle all'orecchio: «Oh, Anna, è di pessimo umore. Questa mattina era abbastanza trattabile, incominciavamo a sperare bene, ma Hugh Pringle l'ha battuto ad ama nel pomeriggio e papà non sopporta di perdere ad ama. Guarda un po' se doveva succedere oggi. Ha trovato Esme che, parole sue, si rimirava allo specchio e allora l'ha costretta a uscire dalla sua camera e ha chiuso la porta a chiave. Poverina, stava solo chiedendosi se poteva piacere al professor Lennox Carter. Non si è nemmeno potuta mettere il filo di perle. E guarda me, non ho osato arricciarmi i capelli. A papà piacciono solo i riccioli naturali. E faccio spavento. Non che abbia importanza, ma ti dà un'idea della situazione. Papà ha buttato via i fiori che la mamma aveva messo sulla tavola. Poverina, si era data tanto da fare e non le ha lasciato mettere gli orecchini di granato. È la crisi più brutta dopo quella della primavera scorsa. Lui era all'ovest e la mamma ha rinnovato le tende del soggiorno e quando è tornato si è infuriato perché erano rosse e non color prugna. Oh, Anna, se non parla lui a tavola, parla tu più che puoi, altrimenti sarà un disastro. E farò del mio meglio, promise Anna, che non aveva mai avuto difficoltà a trovare argomenti di conversazione, però non si era mai trovata in una situazione come quella attuale. E infine si riunirono attorno al tavolo, apparecchiato di tutto punto e con gusto, nonostante la mancanza di fiori. La tremebonda signora Cyrus Taylor, in abito di seta grigia, mostrava un volto più grigio dell'abito. Esme, la bellezza riconosciuta dalla famiglia, una bellezza pallida, capelli biondo pallido, labbra rosa pallido, occhi azzurro pallido. Era ancora più pallida del solito e sembrava sul punto di svenire. Pringle, un monello di 14 anni grassoccio e allegro, con occhi tondi, occhiali e capelli tanto biondi da sembrare bianchi, aveva ora l'aria di un cane al guinzaglio, mentre Trix sembrava una scolara terrorizzata. Il professor Carter, il quale era innegabilmente bello e distinto, con crespi capelli scuri, intelligenti occhi scuri e occhiali cerchiati d'argento, ai tempi in cui era assistente universitario a Redmond, Anna l'aveva giudicato però noioso e tronfio, appariva a disagio. Si rendeva evidentemente conto che qualcosa non andava, conclusione logica se il padrone di casa raggiunge a grandi passi il suo posto a capotavola e si lascia cadere sulla sedia senza dire una parola a nessuno. Cyrus non si decideva a recitare la preghiera del ringraziamento. Allora la moglie, arrossendo come un cocomero, mormorò a fior di labbra: «Per quello che stiamo per ricevere, ti ringraziamo, Signore». Il pasto incominciò male, perché Esme, presa dall'agitazione, fece cadere a terra la forchetta. Saltarono tutti su come molle, perché ormai avevano i nervi a fior di pelle. Solo Cyrus non si mosse e lanciò a Esme con gli occhi azzurri sporgenti un'occhiataccia di furore contenuto. Poi fulminò tutti con lo sguardo e li ridusse a silenzio. Fulminò la povera moglie che si serviva di salsa di rafano, bloccandone subito l'appetito. Non riuscì più a mangiarne e a dire che era la sua passione. Non le aveva mai fatto male e, se per questo non riuscì a mangiare nient'altro e nemmeno Esme, facevano solo finta. Il pasto continuò in un silenzio agghiacciante, rotto dai rari commenti sul tempo di Anna e Trix. Trix implorava con gli occhi Anna di parlare, ma per la prima volta in vita sua Anna si trovava a corto di argomenti. Capiva che doveva assolutamente parlare, ma le venivano in mente solo le cose più idiote, cose che era impossibile dire ad alta voce. Erano forse tutti sotto l'influsso di un incantesimo? Era strano quale effetto poteva avere sugli altri il cocciuto malumore di un solo uomo. Anna non l'avrebbe mai creduto. E non c'era dubbio che Cyrus godesse nel vedere di aver seminato l'imbarazzo tra i commensali. Che cosa mai aveva in mente? Chissà se pungendolo con uno spillo sarebbe anche lui scattato come una molla. Anna avrebbe voluto schiaffeggiarlo, dargli la bacchetta sulle dita, metterlo in piedi in un angolo, insomma, trattarlo da quel bambino viziato che era, nonostante gli irsuti capelli grigi e i minacciosi baffoni. Soprattutto avrebbe voluto costringerlo a parlare. Sentiva istintivamente che indurlo a parlare, quando aveva deciso di non farlo, sarebbe stata per lui la punizione peggiore. E se invece si fosse alzata, fosse andata al tavolino d'angolo e avesse fracassato l'enorme, orrendo e antiquato vaso decorato da tralci di rose in rilievo, che mettevano a dura prova la pazienza di chi doveva tenerlo pulito? Anna sapeva che era l'odio di tutta la famiglia, ma Cyrus Taylor non voleva che lo si regalasse perché era appartenuto alla madre. Anna pensò che l'avrebbe rotto volentieri se così fosse riuscita a ottenere da Cyrus un'esplosione di collera vocale. Perché Lennox Carter non parlava? Allora avrebbe parlato anche lei e magari Trix e Pringle sarebbero usciti dall'incantesimo e si sarebbe potuta avviare una conversazione. Invece se ne stava seduto e mangiava. Beh, e forse pensava che fosse la cosa migliore da fare. Forse temeva di provocare con le sue parole la rabbia di un genitore già tanto in collera. Prego, signorina Shirley, si serva di sottaceti, disse con un filo di voce la signora Taylor. Uno strano impulso si impadronì di Anna. Fece come le era stato chiesto, ma fece ben altro. Senza concedersi una pausa di riflessione, si sporse in avanti e, levando lo sguardo ingenuo dei grandi e luminosi occhi grigio-verdi, disse compitamente: Dottor Carter, forse la sorprenderà sapere che la settimana scorsa il signor Taylor è diventato un tratto sordo. Lanciata la bomba, Anna si raddrizzò. Non sapeva nemmeno lei cosa aspettarsi o cosa sperare. Forse al dottor Carter si sarebbe sciolta la lingua. Se avesse creduto che il padrone di casa era sordo, invece che in preda a una furibonda crisi di silenzio. E, dopo tutto, lei non aveva detto una menzogna, non aveva detto che Cyrus Taylor in quel momento era sordo. Se aveva sperato di far parlare Cyrus Taylor, era destinata a essere delusa. Si limitò a fulminarla con lo sguardo, sempre in silenzio, ma la frase di Anna ebbe un effetto imprevedibile su Trix e Pringle. Anche Trix stava covando collera in silenzio. Prima che Anna pronunciasse la sua domanda retorica, aveva visto Esme asciugare furtivamente una lacrima, sfuggita ai patetici occhi azzurri. Ormai non c'era più nulla da fare. Lennox Carter non avrebbe mai chiesto la mano di Esme. Non aveva più importanza quel che si diceva o si faceva ormai. Trix provò a un tratto il bruciante desiderio di pareggiare il conto con il dispotico genitore. Le parole di Anna le diedero una strana ispirazione e Pringle, che era un vulcano di monelleria repressa, batté un attimo con stupore le palpebre bianche e le tenne prontamente dietro. Finché fossero vissute Anna, Esme e la signora Taylor, mai avrebbero dimenticato il terribile quarto d'ora che seguì. «Che guaio per il povero papà!» disse Trix, rivolta al dottor Carter. «E pensare che ha solo 68 anni!» Due pieghe apparvero agli angoli delle narici di Cyrus Taylor quando si sentì appioppare 6 anni di più, ma restò in silenzio. È veramente una gran festa pranzare come si deve, disse Pringle ad alta voce scandendo le parole. Dottor Carter, cosa penserebbe lei di un uomo che mantiene la famiglia frutta e uova, nient'altro che frutta e uova, solo per capriccio? Forse che vostro padre, chiese sconcertato il dottor Carter. Cosa penserebbe lei di un marito che morde la moglie perché mette nel soggiorno delle tende che a lui non piacciono? Domandò Trix. Che la morde a sangue, sa? Aggiunse Pringle solennemente. Intendete dire che vostro padre? Cosa penserebbe di un uomo che strappa il vestito di seta della moglie solo perché non gli va il modello? Disse Trix. Cosa penserebbe, disse Pringle, di un uomo che si rifiuta di far tenere un cane alla moglie? E pensare che lei ci terrebbe tanto, soggiunse Trix. Cosa penserebbe, continuò Pringle, il quale stava incominciando a divertirsi immensamente, di un uomo che a Natale regala alla moglie un paio di galosce, nient'altro che un paio di galosce? Le galosce non sono certamente un dono entusiasmante, ammise il dottor Carter. Incontrò lo sguardo di Anna e sorrise. Anna pensò che non l'aveva ancora visto sorridere. Il suo volto subiva una straordinaria trasformazione per il meglio. Ma che stava dicendo Trix ora? Diavolo di una ragazza! Si è mai chiesto, dottor Carter, quanto deve essere orribile vivere con un uomo che non ci pensa due volte a prendere su l'arrosto e scaraventarlo contro la cameriera perché non è cotto a puntino? Il dottor Carter lanciò un'occhiata sospettosa a Sir Taylor, temendo di vedersi arrivare addosso una carcassa di pollo. Poi, evidentemente, si rassicurò al pensiero che il padrone di casa fosse sordo. Cosa penserebbe di un uomo che crede che la terra sia piatta? Chiese Pringle. Anna era convinta che a questo punto Sirius avrebbe parlato. Una specie di tremito le percorse il viso rubizzo, ma dalla bocca non gli uscì una parola. Però i baffi erano decisamente meno spavaldi. Cosa penserebbe di un uomo che ha fatto andare all'ospizio la zia, l'unica zia che ha, chiese Trix, e che porta la mucca al pascolo nel cimitero? Disse Pringle. Summerside non si è ancora ripresa dal colpo. Cosa penserebbe di un uomo che tutti i giorni scrive nel diario quello che ha mangiato a tavola? Chiese Trix. Lo faceva anche il grande Pepys, disse il dottor Carter con un altro sorriso. Dal tono di voce sembrava che fosse sul punto di ridere. Forse, dopo tutto, non era tronfio, pensò Anna. Solo giovane, timido e compassato. Ma era assolutamente inorridita. La situazione stava precipitando. Scoprì in quel momento che è molto più facile dare l'avvio alle cose che fermarle. Trix e Pringle stavano dimostrandosi di un'astuzia diabolica. Non avevano detto che fosse il padre a fare queste cose. Ad Anna pareva di vedere Pringle che, con gli occhi tondi, fatti ancora più tondi da una falsa ingenuità, diceva: Ma io al dottor Carter lo chiedevo solo per curiosità. Cosa penserebbe, continuò Trix, di un uomo che apre le lettere della moglie? Cosa penserebbe di un uomo che va a un funerale, il funerale di suo padre, con l'abito da lavoro? Chiese Pringle. Cos'altro avrebbero inventato ora? La signora Taylor piangeva senza ritegno ed Esme aveva raggiunto la calma della disperazione. Non le importava più di niente ormai. Esme guardò dritto in volto il dottor Carter, che aveva perso per sempre. Per la prima volta in vita sua trovò il coraggio di dire una cosa davvero intelligente. Cosa penserebbe, chiese con voce quieta, di un uomo che impiega un'intera giornata per scovare i cuccioli di una gatta uccisa perché non sopporta l'idea che muoiano di fame? Uno strano silenzio calò nella sala. A un tratto Trix e Pringle si vergognarono. E la signora Taylor, sentendosi in dovere di sostenere l'inattesa difesa compiuta da Esme, disse in tono garrulo: E lavora benissimo all'uncinetto. L'inverno scorso, quando era costretto a letto dalla lombagine, ha fatto uno splendido centrino per il tavolo del salotto. Ciascuno ha il proprio limite di sopportazione e Cyrus Taylor l'aveva raggiunto. Si alzò e spinse all'indietro con forza la sedia. Che volò sul pavimento lucido e andò a colpire il tavolino con il vaso. Il tavolino si rovesciò e il vaso si ruppe nei proverbiali 1.000 pezzi. Sirius, con le folte sopracciglia bianche ritte per la rabbia, si erse in piedi e infine esplose. Io non lavoro all'uncinetto, donna! Vuoi che un miserabile centrino mi rovini la reputazione per sempre? Era tanto il male per quella maledetta lombagine che non sapevo più quel che facevo. E sono sordo, vero, signorina Shirley? Sono sordo. Papà non ha detto che sei sordo adesso, esclamò Trix, che non aveva paura quando la collera del padre era vocale. Oh no, non l'ha detto. Nessuno di voi ha detto niente. Non hai detto che avevo 68 anni, quando invece ne ho solo 62, vero? Non hai detto che non voglio far tenere un cane a tua madre. Santo Dio, donna, puoi tenerne anche 400 se vuoi e lo sai benissimo. Quando mai ti ho negato qualcosa? Quando? Mai, pa, mai, rispose la signora Taylor tra i singhiozzi. Non ho mai voluto un cane, pa. Non mi è mai nemmeno venuto in mente di volerlo. Quando mai ho aperto le tue lettere? Quando mai ho tenuto un diario? Un diario, questa poi. Quando mai ho indossato l'abito da lavoro a un funerale? E quando mai ho portato la mucca a pascolare nel cimitero? E qual è la zia che ho all'ospizio? Eh? Ho mai scaraventato l'arrosto contro qualcuno? Vi ho mai fatto vivere a frutta e uova? Mai, pa, mai, confermò la signora Taylor tra le lacrime. Non ci hai mai fatto mancare niente, niente di niente. Non sei stata tu a dirmi che volevi le galosce lo scorso Natale? Certo, pa, certo, e ho avuto i piedi sempre comodi e caldi per tutto l'inverno. Volevo ben dire. Cyrus si guardò attorno con aria trionfale. Incontrò gli occhi di Anna e a un tratto accadde l'imprevisto. Cyrus rise. Sotto i baffi, ma rise. Le guance gli si incavarono. Spuntarono due fossette che trasformarono miracolosamente l'espressione del viso. Riportò la sedia accanto al tavolo e si sedette. Ho la pessima abitudine di tenere il broncio, dottor Carter. Tutti hanno qualche cattiva abitudine, io ho quella, è l'unica. Su, su, ma non piangere più. Ammetto di essermi meritato tutto, tranne la tua battuta sull'uncinetto. Esme, ragazza mia, non dimenticherò mai che sei stata l'unica a difendermi. Dite a Maggie di venire a togliere quei cocci. Lo so che non vedevate l'ora che finisse rotto. E che porti il dolce. Anna non avrebbe mai creduto che una serata iniziata tanto male potesse finire tanto bene. Cyrus non avrebbe potuto dimostrarsi ospite più cordiale o piacevole. E la situazione era evidentemente appianata perché Trix tornò da Anna qualche sera dopo per dirle che aveva infine trovato il coraggio di dire al padre del fidanzamento con Johnny. È stato poi così terribile? Oh, niente affatto, ammise umilmente Trix. Ha sbuffato e ha detto che era ora che Johnny arrivasse al dunque, dopo 2 anni che mi gironzolava attorno, tenendo alla larga tutti gli altri. Per conto mio, l'ultima crisi di malumore era ancora troppo recente e ti assicuro, Anna, tra una crisi e l'altra, papà è davvero un tesoro. Credo che sia un padre molto migliore di quanto meritiate, disse Anna, ricalcando lo stile di Rebecca Dio. Beh, hai incominciato tu, disse Trix, e il buon Pringle ha dato una mano. Tutto è bene quel che finisce bene, e grazie al cielo, non dovrò più spolverare quel vaso.